Andiamo alla provincia di Livorno con Alessio. Pronto, Alessio? Ciao. Ciao, buona giornata. Dimmi cosa hai in macchina di cui non ti liberi. Allora, di cui non mi libero sono una serie infinita di libri. Uh-huh. Ma che sarà per essere liberato è un vecchio proiettore di diapositive della Germania dell'Est. Cioè, no, aspetta un attimo. Tu hai in macchina proprio una serie di diapositive. Cioè, ma proprio il proiettore o solo le diapositive? Il proiettore. Ah, ok. Con dentro però le diapositive della Germania dell'Est. No, il proiettore della Germania dell'Est. Ah, che hai comprato nella Germania dell'Est. Sì, che ho comprato. Perfetto. Che è rimasto lì e che praticamente continuo a vagarmi in macchina, è una specie di torbellone enorme. Benissimo, Alessio, io ti ringrazio, direi che oggi in quanto elenco di oggetti caricati in macchina ci siamo. Se volete continuare a scrivermi, vendo tutto, @radio24.it. Torniamo però alle liste dei desideri. Sapete che tutti i giorni io vi leggo la mia lista dei desideri, che è quello che voglio fare con i soldi che guadagno da questa vendita totale. Erano arrivati alcuni messaggi di ascoltatori che mi leggevano i loro desideri, sparsi, erano più o meno uno o due per messaggio. Marco ha fatto di più. Marco mi ha scritto questa mail: ho ascoltato la trasmissione, ho sentito Matteo leggere i desideri degli ascoltatori, allora ci ho pensato un attimo, ho recuperato i buoni propositi del 2010 e ho messo giù i miei desideri in una lista, un po' come piace a voi e come piace anche a me, e quindi a voi la lista di Marco. Vivere un anno a Londra e uno a Berlino, condividere qualcosa di importante con qualcuno, stare sul palco insieme ai Rolling Stone, comprare un medicinale per mascherare i malesseri, fare il professore di latino nel liceo di Rosarno, scrivere su Internazionale, dire a tutti i qualunquisti che hanno un po' rotto le palle, e questa non è male, realizzare un DVD con il best of della mia vita e notare che quel DVD non dura solo un paio di minuti, lavorare in radio, comprare e vedere tutti i film con Jack Nicholson, compresi matrimoni e battesimi, andare e lasciare un biglietto sulla tomba di Gandhi, avere un figlio che ascolti Dire Straits, imparare davvero a giocare a badminton e vincere le Olimpiadi, incontrare la prof che mi chiamò deficiente e accettare le sue scuse, piangere una volta sola, a lungo, e poi essere felice.